Buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono un interista incantatissimo. Io te la facevo un tiro, la palla che ti facevi il tiro io non girava mai, andava fisso e andava sempre allo stesso posto. Io la maggior parte delle colpe le do al presidente, perché non so, magari per il lavoro che fa con i fumi del gasolio si è rovinato il cervello. Tutti convocati di Carlo Genta. Vediamo un po', Bobby Bonnici, vediamo un po', Costante prende palla, la butta lì fuori, ne vuole un'altra, ah, e poi stizzito la lancia in tribuna, viene allontanato dal direttore di gara, Gervasoni, ha mandato via. La sensazione è che Constant, non abbiamo visto cartellino rosso, abbia sentito qualche cosa di poco piacevole dalle tribune. No, che espulso, sentite, no. Non è espulso, è lui che se n'è andato. Oh, non dire, confuso. Attenzione, sentite, no, scusate, non è espulso, è uscito lui per delle coreografie. Adesso facciamo fare il. No, ho chiesto a lei. Non mandare delle stupidate. No, io non ho parlato. Allora, Gervasoni chiarissimo. È stato espulso. Non espulso, non espulso, ma chiarissimo. Coreografisti ha preso e se n'è andato. Insomma, un po' l'episodio di Bustarzizio. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, ma adesso vediamo perché gli argomenti di oggi non sono tra i più piacevoli. Rubbish, come dicono gli inglesi, o spazzatura pura, come possiamo dire da queste parti. 800240024 per i vostri commenti. Franco Piantrini, autore di questo programma, Filippo Aureggi in regia. Questa canzone si intitola Animals. Perché? Perché è per la serie Gli animali non vanno mai in vacanza, nemmeno in una notte di afa tremenda al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con zanzare grosse come elefanti, nel deserto del calcio vero, in una vetrina ormai tradizionale dell'estate come il trofeo team, perché ieri sera onestamente di Juventus e Milan si sono viste soltanto le magliette nuove, la suggestione di quelli, di quei giocatori nuovi che le portavano. Abbiamo visto molto più Sassuolo che non Milan e Juventus, ma come era facilmente pronosticabile. Che cosa succederà da fine agosto in poi è domanda fin troppo banale. Dico subito che a me non piacciono poi tanto i giocatori che si fanno saltare i nervi, fanno di testa loro, li capisco fino in fondo, o provo a capirli fino in fondo, che come ai giardinetti prendono il pallone sotto braccio e vanno negli spogliatoi. Non li capisco fino in fondo, ma non mi piacciono, perché sono professionisti, perché anche di fronte agli ululati degli animals bisogna mantenere un minimo di lucidità, se no dove rotoleremo mai? Però, come dicevo prima, a voi, che siete tutti convocati come ogni giorno, 800240024, dicevo che è un giorno in cui al peggio non sembra esserci fine. Poi torniamo sul trofeo team e dintorni. Non c'è fine, perché dal Senato francese arrivano delle risposte su campioni di liquidi organici, liquidi corporei, vecchi di 15 anni. Solo una conferma: il Tour del 98 fu il più dopato della storia, uno dei più dopati della storia, come le Olimpiadi di Seul, d'altra parte. Oggi, rispetto a quanto anticipato ieri da Le Monde, si è saputo che su quel podio c'erano Pantani primo, Urich secondo, Julich americano terzo. Ebbene, ieri, secondo le anticipazioni, tutti e tre protagonisti di casi di EPO, invece si è detto Julich no, lui non è risultato positivo. Poi è stato anche detto, oggi è stato anche confermato, che non verrà toccata quella classifica, quell'ordine d'arrivo. Comunque sono tutte cose, questo revisionismo addirittura postumo è quanto di più disgustoso io possa immaginare, almeno a me è una cosa che mette disgusto, non so a voi, e soprattutto non so al mio amico Cristiano Gatti, penna illustre del giornale. Ciao Cristiano. Ciao a tutti. Io ti chiamo sempre quando ci sono queste cose bieche, perdonami. No, ma purtroppo è che è molto frequente, non si può esimersi. Ormai sono più frequenti le notizie di doping che le notizie. Sì, ma questo non è neanche una notizia di doping, Cristiano. È una notizia, maestro di giornalismo, non so, tra la cronaca nera e CSI New York, voglio dire. Mi sembra una cosa veramente disgustosa nei suoi contorni e nei suoi profili. Anche ti dico questa. Notizia di adesso, anche l'italiano Mario Cipollini e il tedesco Eric Zabel sono risultati positivi all'EPO. Sto leggendo l'agenzia durante il tour 98, secondo un rapporto della commissione d'inchiesta parlamentare francese sull'efficacia della lotta doping reso noto oggi. Guarda, devo dire che questo rapporto tanto atteso, che sembrava dover sconvolgere il mondo, non aggiunge nulla di nuovo. Purtroppo confessioni, rivelazioni, dossier, libri, insomma tutto ha già svelato tutto. Forse, se vogliamo dire, questo aggiunge la seconda pietra tombale sul mito di Marco Pantani, se la vogliamo leggere in un modo molto così brutale, rigoroso e brutale. Io devo dire che non c'era bisogno di una seconda pietra tombale, soprattutto, come hai detto tu, è sempre brutto andare a condannare, a mettere alla gogna una persona che non c'è più, che è morta. Qui non è solo lui, ci sono gli altri, però devo dire che alla fine a me questo dossier ha dato una grande serenità, e non lo dico per provocazione. Io sono sempre stato convinto, dati alla mano, che quegli anni furono gli anni del sismo all'Epo, che tutto il gruppo era ben fornito di Epo, per cui io mi sento di poter dire con grande serenità, adesso anche dati alla mano, non è più un'opinione, che comunque Marco Pantani era il più grande di tutti. Secondo me questo non fa altro che sostenere il suo mito, lo voglio dire proprio con una punta di estremismo, ma come vedi Marco Pantani dopato ha però battuto dopati, e li ha battuti in un modo meraviglioso, per cui quello che poi poteva sembrare magari una diminuzione del mito, alla fine non fa che consolidarlo. Io lo voglio vedere così, non lo dico da tifoso, ma lo dico anche da tifoso. Io guarda, lo dico anche da tifoso, mentre adesso c'è il traffico e proviamo a ripristinare la linea con Cristiano Gatti, che non è perfetto. Lo dico anche da tifoso, e una volta di più mi espongo al pubblico ludibrio dichiarando il mio tifo per qualcosa o per qualcuno, in questo caso Marco Pantani. Possiamo leggerla, volendo estremizzare fino in fondo, come un preview o una prova, non lo so, come quello che volete, tanto stiamo parlando di argomenti da lacrime agli occhi, no? Di un ipotetico futuro di doping liberalizzato. Estremizziamo fino a questo punto. Tutti convocati. Dunque torniamo con Cristiano Gatti, sempre inviato del giornale, con il quale stavamo parlando appunto delle conferme arrivate oggi dal Senato francese, anticipate ieri da Le Monde, sebbene con qualche imprecisione relative ad un Tour de France di 15 anni fa e a questo revisionismo addirittura postumo nel caso di Marco Pantani, che non porterà però, Cristiano, è stato confermato alla necessità di riscrivere, come io trovo sbagliato, semplicemente sbagliato, di riscrivere una classifica, perché io sono dell'idea, visto che siamo nel campo degli estremismi, che vi piaccia o no, sono dell'idea che se il primo vara non vince il secondo, ma la corsa viene cancellata. Questa è la mia impressione, questo vale per i tour, per gli scudetti, per tutto quanto, metto tutti insieme. Esiti che non cambieranno la classifica, hanno cambiato invece quelli della classifica dei tour successivi, che sono stati tolti ad Armstrong e assegnati a chi era secondo, terzo, quarto, quinto, dodicesimo in classifica, però c'è un'ulteriore, pesantissima, come dicevi tu, sentenza mediatica. Guarda, io trovo stupido cancellare il vincitore di quelle corse. Soprattutto poi trovo ipocrita da parte dei francesi, che hanno tolto 7 Tour de France ad Armstrong e invece hanno tranquillamente lasciato il Tour a Rees e il Tour adesso a Ulrich, che ha pure confessato, per cui si mettessero d'accordo, non capisco perché ad Armstrong sì, esatto, e gli altri due esatto, no, e vabbè, esatto, queste sono esatto, tutte cose, esatto, sono i soliti equilibrismi francesi molto formali e devo dire anche piuttosto insopportabili. Sono d'accordo con te, gli ordini d'arrivo restano quelli che sono, e non ha vinto il secondo, anche perché, guarda caso, tra l'altro pure il secondo era dopato quanto il primo, per cui quegli ordini d'arrivo devono restare così. Tutti noi nella nostra mente abbiamo un asterisco da collegare a quei nomi. C'è un asterisco nostro che colleghiamo mentalmente ai 7 Tour di Armstrong, perché sappiamo adesso come li ha vinti, però la classifica resta lì. Storia anche quella, è magari una brutta storia, però noi è giusto che mandiamo negli archivi 7 vittorie di Astro, certo. Poi magari ci spiegheremo come, ma questo fa parte poi della discussione, della memoria, e non vedo perché invece si debba far finta di occultare quello che è stato. Bravo, molto bravo, meglio, certo. L'operazione verità, guarda, la verità per quanto dolorosa è sempre meglio di qualunque bugia, ma non c'è dubbio su questo. Mi piacerebbe una volta tanto essere in disaccordo con te, mi sa che non ti chiamo più perché sennò ci annoiamo a morte. Soprattutto chi ci ascolta, è vero. Altrimenti penso che siamo d'accordo. Facciamo, la prossima volta ci sentiamo e facciamo finta di scazzarci su qualunque tema, almeno facciamo un po' di cinema. Sì, sì. No, senti Cristiano, io invece voglio salutarti rendendo pubblico un fatto privato tuo, perché Poppy Bonnici, che è noto regista di Mediaset, tra l'altro ieri sera regista del trofeo team, per quel che può contare Poppy Bonnici ha fatto regista in competizioni ben più importanti. Ebbene, su Twitter ci scrive: grande Gatti alla faccia dei falsi moralismi, ho sempre apprezzato la fine conversazione tra di noi. Cos'è sta fine conversazione tra te e Poppy Bonnici? Mi volete troppo bene, basta, devo mettervi giù il telefono. Perché... No, adesso me lo dici. No, perché sono curioso io. Guarda, saluto, io non uso Twitter perché così sono buono. Io neanche, non sono capace. Però se mai Poppy ci stesse sentendo, comunque per persona lo abbraccio, perché lo considero, purtroppo sembra una piaggeria per contraccambiare, ma è sicuramente il più grande regista di sport, e anche non solo di sport, aggiungo, comunque il più grande regista di sport che abbiamo in Italia da diversi anni, indubbiamente. Per cui grazie, mi prendo il suo complimento. No, ma io voglio sapere questa fine conversazione. Cose segrete. Ah beh, ok, ti appelli al quinto emendamento, facoltà di non rispondere, ti lo concedo, Cristiano Gatti. Sì, sì. Grazie. No, guarda, con Poppy lui ha seguito, lo sai, quando Mediaset seguiva il Giro d'Italia. Sì, certo, abbiamo certo. Passato varie volte, io poi anche in posizione critica su certe cose che facevano loro, quindi abbiamo discusso di tante cose, una persona molto intelligente che supera anche il suo lavoro di regista, è un fine ragionatore su tante cose, una persona validissima. E all'urlo di God Save the From... God save the From, incrociando tutte le dita disponibili, anche quelle dei piedi, io ti saluto e poi chiamo Poppy Bonnici, vediamo se riesco a venire a capo di questo mistero. Grazie Cristiano, ti abbraccio Cristiano Gatti, e abbraccio anche gli ascoltatori che sono intervenuti numerosissimi anche oggi, ma insomma grossi dubbi non li avevo. 800 24 00 24, Massimiliano da Piacenza, Filippo provincia di Varese, Simone da Milano, i primi tre. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno a te Genta, eccomi convocato. Due rapide cose. Una, ma siamo sicuri che gli U a Constant erano di razzismo e non forse per punzecchiare uno scarso giocatore? Perché Ogbonna e Niang proprio bianchi non sono. Seconda cosa, basket. Sì. Ma ce la farà Milano a fare una squadra per riuscire a competere o no? Cos'è una domanda trabocchetto? Sono il disperato dell'Olimpia da anni e qua non se ne riesce a venire a capo. Bruciamo allenatori buoni come se fossero piedini. Come se fossero spiedini, visto che siamo in tempo di grigliate. Io mi attengo alla seconda parte della domanda, anche perché magari poi la prima la affrontiamo, o meglio, se preferite, affondiamo le mani nella spazzatura fino al gomito. Stare a disquisire se Costanza, perché è stato insultato perché era scarso, invece quegli altri no, mi sembrano questioni di lana caprina, perché gli insulti sono insulti, e gli insulti a sfondo razziale sono i peggiori e i più infamanti di tutti, ma più che altro per chi li pronuncia, secondo me sono un marchio di infamia per chi li pronuncia, prima ancora che verso il bersaglio, nei confronti del bersaglio cui sono diretti. Per quanto riguarda l'Olimpia Milano, credo che sia questa una domanda, quella che lei fa, una domanda trabocchetto, una domanda estremamente provocatoria. L'Armani brucia allenatori, giocatori, dirigenti come fossero spiedini su un grill estivo. Ce la farà? Ebbene, ovviamente non possiamo che lasciare questa domanda in sospeso, nell'aria, fino alla prossima puntata. Cioè fino al prossimo playoff più che campionato. Filippo, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno dottor Carlo, mi perdoni ma io purtroppo non sono d'accordo con lei in merito a Pantani, non lo so, mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca sentire Pantani il più grande tra i dopati. Cioè, io avrei non il più grande tra i dopati, non il più grande tra i dopati, uno come gli altri, io come loro e tutti come me. Questo avrebbe dovuto dire Pantani il giorno dopo Madonna di Campiglio. Sì, però io non la considero, non è per me consolante, nel senso che avrei preferito, siccome ero tifosissimo di Pantani, avrei preferito sentire appunto, io non sono dopato, ho vinto nonostante i dopati, comunque per amor del cielo. Quale sport? Scusi? In quale sport? In quale sport? Non lei ha vinto. No? No, in quale sport ha vinto? Io? Sì, non ha detto ho vinto nonostante quelli dopati? No, io ho preferito che Pantani dicesse certo. No, io non sono uno sportivo. Ho capito, no, ma infatti, guardi, quello che penso da sempre è che dopo il tour del 98, dopo Madonna di Campiglio, Marco Pantani aveva la possibilità e il potere mediatico era finito in prima pagina su tutti i giornali del mondo, complice lo scandalo Festina, quell'immagine della maglia gialla seduta a terra in quel famoso sciopero dei corridori del 98 ha fatto il giro del mondo, ed è una delle icone dello sport moderno, io credo, una delle fotografie simbolo, crudeli finché vogliamo, dello sport moderno. Io credo che Pantani in quel periodo avesse il potere di far crollare il mondo intero. Lui, gli si può imputare di non aver avuto il coraggio, ma come lui tutti gli altri, perché a quel punto lui poteva far saltare con la dinamite il tappo del vaso di Pandora, e poi lì, quando ancora non erano passati 15 anni, quando ancora non erano accaduti tutti quegli eventi molto tragici, molto drammatici in senso sportivo e non sportivo che si sono poi verificati, ebbene avrebbe avuto il potere di far saltare tutto quanto. Non ha avuto il coraggio, non è stato in grado, insomma, questa è storia. Simone da Milano, buongiorno. Buon pomeriggio signor Genta. La volevo chiamare per una questione. Da più di una settimana lei sta parlando delle tifoserie un po' scalmanate in Italia, ma queste tifoserie non sono gestite dai responsabili delle tifoserie dei club? So che è obbligatorio, dal campionato scorso la FIFA aveva indatto questa legge. Allora Simone, non mi sembra di aver parlato, magari non me ne sono accorto, però non mi sembra di aver parlato di recente di tifoserie e dintorni, anche perché onestamente non ce n'era l'occasione, non ce n'erano gli spunti. Considerato il punto geografico, se me lo consentite, dello stadio nel quale è avvenuto questo episodio, cioè lungo la linea laterale, non penso che si trattasse di tifoserie organizzate, non penso si possa parlare di tifoserie organizzate. A prescindere da questo rimane l'inciviltà di fondo, ripeto, di gli animali non vanno mai in vacanza, lo dico, lo confermo e lo sottoscrivo, perché è così secondo me, e quindi a prescindere dal tifo organizzato, gli insulti a sfondo razziale che arrivano da qualunque angolo dello stadio sono inaccettabili. Però torno a ripetere, io non condivido nemmeno l'atteggiamento di quei giocatori che si fanno giustizia da soli a livello professionistico, perché c'è un arbitro che decide, c'è un arbitro anche che ha il potere dal punto di vista della legislazione sportiva di farlo, e dunque ci si rivolge all'arbitro. Non ha senso prendere e andare nello spogliatoio, secondo me, questa è la mia opinione. Intanto, prima di ascoltare la vostra di opinione, di riascoltare la vostra, di andare fino in fondo a questi argomenti e di parlare anche di sport giocato e dello stesso trofeo team, che peraltro dal punto di vista sportivo, calcistico strettamente, non ha detto niente, voglio rimettere l'accento su un grande evento di ieri che ci lascia un sacco di rabbia, ed è quello della medaglia d'oro fallita per un soffio da Tania Cagnotto. Altro argomento di cui mi piacerebbe parlare. Uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo. Poteva chiudere la gara, decisamente. 66,20, media dell'8,5. Sono le 15:05 del pomeriggio. Dai, di Barcellona. Facile un regalo una volta. Non è pulito. A me non è piaciuto, a te? No, sei... Siamo vicini. 307 netti, deve stare al di sotto. No! No, non ci credo. Peggio che a Londra. peggio non che a Londra. A Londra 20 centesimi, questa volta 10. Mi viene da ridere a me perché dico, sono arrivata seconda e sono quasi arrabbiata perché cavolo, per di nuovo, cos'è, un centesimi, bene, questi centesimi mi perseguitano, però mai avrei pensato di arrivare seconda anche quest'anno, quindi sono super contenta. Certo, super contenta Tania Cagnottolo, lo siamo anche noi, ma è una felicità velata, in maniera nemmeno tanto lieve, dalla rabbia per l'oro sfumato. Tutti convocati. 800240024, questo tempo e questo spazio, questo microfono è per voi. Franco da Genova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, innanzitutto complimenti alla Cagnotto per quello che ha fatto. Sì. E chiudo il discorso lì. Ma mentre invece per il doping volevo dirvi che il problema è molto più vasto e molto più esteso di quello che sembra. E come voi sapete, il sistema antidoping in Italia non ha i soldi sufficienti per coprire tutte le cose. Tenete presente soltanto che adesso a Torino ci saranno i Master Games, tutti gli sport, e non ci sarà servizio antidoping perché mancano i soldi per farlo. Allora, Franco, questo è un discorso che abbiamo già fatto molte volte, nel senso che dal punto di vista tecnico, tecnologico se vogliamo, l'antidoping è uno dei grandi problemi epocali, che è sempre stato qualche passo indietro rispetto al doping, ma per l'appunto per discorsi economici. Se lei mi dice non è possibile estendere controlli al mondo dei dilettanti e delle giovanili, quei controlli molto sofisticati che vengono praticati ai professionisti, questo è vero, e sfondo una porta aperta, infatti un grande cruccio è quello, chi parla in maniera insomma molto forte, molto dura, molto crudele, cruenta se vogliamo, di liberalizzazione del doping, dice ma quelli lasciamoli liberi, sono professionisti monitorati al massimo livello medico e dunque paradossalmente sono quelli che rischiano di meno, quelli che rischiano tanto e che non vengono stanati per mancanza di risorse sono i dilettanti, chi corre per gioco, per divertimento, passatempo domenicale e si fa le bombe in maniera non mi viene un aggettivo sinceramente parlando di queste cose, così come non mi vengono aggettivi parlando del doping nelle categorie giovanili, che sappiamo esistere e sappiamo esistere in molti casi impunemente, sempre per ragioni economiche. E allora c'è anche chi mi scrive in una montagna di sms che io ho tartassato From senza uno straccio di prove, giustifico Pantani che già in una Milano-Torino del 94 risultò positivo al doping e mi dà dell'ipocrita. Io non ho tartassato nessuno, io semplicemente ho esposto il mio pensiero, o meglio le mie sensazioni, che sono le sensazioni di uno che si è scottato nel corso degli anni da grande innamorato dello sport e di questo sport, si è scottato in maniera violenta, no? E quindi posso avanzare i miei dubbi e i miei sospetti, che sono sensazioni personali, o volete che sia asettico e che non lasci trasparire i miei pensieri e le mie emozioni? Io lo faccio, poi ne parliamo. Paolo da Forlì, buongiorno. Buongiorno, due cose. Dopo che mi ha abbassato la radio, due cose, perché sennò sento il ritorno in cuffia, grazie Paolo. Eccomi, allora, il discorso tennis Fognini, secondo lei potrà arrivare finalmente dopo tanti anni il tennista maschile italiano dentro alla famosa top ten? Seconda cosa, al volo, vorrei qualche spiegazione un po' più sensata, perché non si è spiegato bene. In Serie C, il calcio intendo, sarà un annato un pochino anomalo, nel senso che non dovrebbero esserci promozioni, se non erro, se me lo può spiegare meglio, ecco. Sì, anche questo è un discorso parecchio lungo, è in corso questo procedimento per capire chi ha i requisiti economici e chi non ce li ha per iscriversi al prossimo campionato di quella che lei chiama, per ragioni di comodità usiamo questo termine, perché tra tutti i neologismi con cui sono stati ribattezzati i campionati la chiamiamo Serie C e non se ne parla più. Ebbene, lì è in corso una revisione dei conti per capire chi ha i parametri corretti e chi no. Io, tornando molto a monte, penso sempre che in Italia ci sia un eccessivo numero di squadre professionistiche o semiprofessionistiche o formalmente dilettantistiche, che però vengono così composte da giocatori che non fanno i dilettanti e che magari prendono i soldi come rimborsi spese in nero, ma sono professionisti a tutti gli effetti. Ebbene, questa è una distorsione del sistema e del mercato sportivo, ed è lì a monte che si dovrebbe intervenire, non come è normale che sia e come verrà fatto in questo caso, tagliando e segando via i rami secchi con parecchi giri di ritardo sul necessario. Allora, in Lega Pro 1, perché si chiama così, e vi ripeto, perdonatemi, ma ho perso il conto dei nomi con cui viene battezzata questa categoria, non ci saranno retrocessioni, è in corso appunto questo profondo processo di revisione. Allora, rimaniamo, Puanta Fognini, rimaniamo sulle sue dichiarazioni, cioè vinco uno slam e mi sdebito da mamma e papà. Queste sono dichiarazioni del giorno dopo la vittoria di Amburgo. Arriverà nei primi 10 del mondo? Boh, possiamo limitarci a sperarlo tutti insieme. Il talento c'è, e poi sono d'accordo con chi, ne parlavamo anche ieri, con chi dice dietro i primi 5, che sono inattaccabili e che sono irraggiungibili per tutti gli altri, alle spalle dei primi 5 c'è una situazione molto, molto fluida, molto magmatica, per cui è possibile compiere questa arrampicata. Faccio ragionamenti da comunista, mi scrive qualcuno, non saprei perché, vorrei, attendo spiegazioni magari al telefono, perché l'SMS è sempre un po' carico di qualunquismo, quindi attendo illuminazioni da chi mi scrive questo. Allora, torniamo al Trofeo Team. Ieri ho detto, insomma, è in corso questo dibattito, ma lo guardate o non lo guardate? Se lo guardate, ditelo, non fate finta di niente, perché non è peccato guardare il Trofeo Team, non c'è da andarlo a confessare la domenica prima della messa. È lecito guardare il Trofeo Team, ci mancherebbe altro. Io l'ho fatto magari un po' a sprazzi, però ho sentito le interviste dei vari dopo partita, visto che era questa formula non tanto calcistica delle tre partite da 45 minuti. Allora, Di Francesco, Allegri, Conte. Sono contento per quello che ha messo in campo la squadra, la mentalità, la voglia di giocare. Mi ha dato grande soddisfazione stasera, però ricordiamoci che, come si suol dire, non è nemmeno calcio di agosto, è calcio di luglio, conta relativamente. Adesso dobbiamo lavorare con grande umiltà, consapevoli che possiamo far bene. Ma abbiamo fatto una buona partita, è normale, la prima partita della stagione, abbiamo fatto discretamente bene, è normale che non abbiamo la velocità di quello che sarà le partite che affronteremo più avanti, però direi sono abbastanza soddisfatto, avendo di fronte sempre la Juventus, che pur essendo un amichevole è sempre un test molto attendibile. L'aspetto positivo è che non abbiamo preso gol, però abbiamo fatto veramente vedere poco di quello che sappiamo, che conosciamo, però ci sta, perché ripeto, carichi di lavoro importanti, e quindi complimenti a questi ragazzi perché hanno fatto un ritiro molto intenso. Allora, li abbiamo sentiti nell'ordine di Francesco, Allegri e Conte. Allora, calcio per voyeur, dicevo prima, Trofeo Team chiuso tra l'altro a ore da bollino rosso, che Trofeo Team che non ha detto nulla se non il piacere, visto che siamo in questo tema quasi fisico, quasi erotico calcisticamente, di vedere quelle maglie addosso ai nuovi giocatori. Aldo Serena, commentatore tecnico ieri sera per il Trofeo Team. Ciao Aldo. Ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori. A te ha detto qualcosa di calcistico il Trofeo Team, al di là di un Sassuolo che è sembrato abbastanza brillante già? Beh, ha detto poco, perché la Juventus è in ritiro da 11 giorni, quindi carichi di lavoro notevoli, hanno imballato le gambe dei giocatori di Conte, lo stesso vale anche per il Milan, ci sono defezioni enormi nella Juventus, 9 giocatori che sono per tutti i titolari assenti, lo stesso vale per il Milan, 5, soprattutto tutto l'attacco dei rossoneri assente. Ecco, il Sassuolo invece ha fatto vedere, a mio avviso, grandi cose, ha fatto vedere una squadra organizzata, una squadra che ha delle individualità notevoli, giovani d'attacco, bravi, Berardi, Alexi, il nuovo acquisto rumeno, molto bravo sulla sinistra. Quindi qualcosa di buono ha fatto vedere il Sassuolo, le altre due un po' meno. Sì, le altre due un po' meno, se non nulla, non si può dire nulla dopo la partita di ieri su Milan e Juventus, anche c'è chi cioè chi scrive in maniera inutilmente maliziosa che ci fosse stata l'Inter una sconfitta avrebbe avuto ai miei occhi non, poi non so perché un peso diverso, lasciamo stare questo. Juventus inattaccabile, questo lo posso dire non alla luce di quanto non si è visto ieri sera, ma alla luce di un mercato nel quale la Juventus secondo me ha dato un altro giro di pista alla concorrenza. Sì, anche perché in un panorama come quello italiano desolante, ecco, noi rispetto a, alla Francia, all'Inghilterra, alla Spagna non abbiamo veramente possibilità per poter arrivare ai giocatori. Ora fuori Napoli con Higuain ed è un acquisto notevole per De Laurentiis con una spesa fuori norma, ecco, per il nostro campionato, 40 milioni sembra un esborso enorme. Io credo che Napoli sia secondo nella pit lane dietro alla Juventus. Sì, penso di sì, è tutto da stabilire quanto Benitez vorrà incidere di suo o mantenere la base di Mazzarri. Benitez è un allenatore esperto, non ha fatto bene dappertutto, ha fatto bene in alcuni casi, in altri meno, con l'Inter non è riuscito, ecco, a prendere l'eredità di Mourinho, anche se per la verità era molto difficile, viste le loro liti precedenti. Guardo con curiosità il Napoli e vedremo nelle prime partite cosa, su che direzione andrà Benitez. Aldo, per chiudere, una domanda che ti voglio fare da un po' di tempo, aspettavo l'occasione. Ovviamente tu la sai già, no? Perché te l'hanno già fatta. Il caso Ogbonna, io lo giro a te che hai vestito tutte e quattro le magliette, ma potrei girarlo anche a Pirlo che ne ha vestite 3 su 4, gli manca quella del Torino. Io continuo a sostenere che Ogbonna ha fatto un'ineccepibile scelta da professionista e dei discorsi molto chiari, anche qui ineccepibili, da professionista del calcio. Ma chi fa questo lavoro cerca di farlo per bene e cerca anche in maniera ambiziosa di trovare le soluzioni migliori per la propria carriera, soluzioni migliori che possono essere le squadre più forti all'estero, sotto il profilo economico un professionista deve anche avere un occhio, certo, a questa opportunità. Ogbonna, mi rendo conto, l'ho fatto anch'io, cambiare sponda comporta sempre molti problemi di vario tipo. A me sembra che lui sia andato e si abbia cominciato la sua avventura con la Juventus con tranquillità, l'ho visto ieri sera giocare entrambe le partite con scioltezza, si è subito inserito bene, mi sembra un ragazzo maturo, ha fatto una scelta personale e secondo me per la sua professione ha fatto la scelta giusta, perché la Juventus è la squadra più forte in Italia. Perfettamente d'accordo, grazie Aldone. Ciao a tutti voi. Ciao, grazie ad Aldo Serena. Tutti convocati. Dunque torniamo per parlare, soprattutto per parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, Massimo da Treviso, Davide da Firenze, Gerry da Modena. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo dire solo una cosa in merito al giocatore del Milan che se n'è andato. Volevo solo Costante, dire che loro sì. Sono professionisti, cioè sono pagati per giocare, il loro mestiere è giocare, devono giocare. Dopo chi di dovere prenderà dei provvedimenti, perché altrimenti anche Balotelli, quando lo fischiano i tifosi avversari, sanno che a lui dà fastidio, per cui lo fanno apposta, lui si innervosisce di più e... Sì. Che non deve essere un ragionamento, però lei si rende conto, io concordo su quanto lei dice, però è un ragionamento molto perverso, molto ai limiti dello scabroso, anzi oltre ai limiti dello scabroso, cioè io so che lui se la prende, allora io gli faccio bugli, gli lancio insulti razzisti orripilanti, lui si incazza, se ne va dal campo, ne guadagno io. Beh, siamo alla perversione, lei si rende conto, no Massimo? Detto questo, sono della sua opinione, e cioè al di là del professionismo, perché stiamo parlando comunque di ragazzi, di uomini eccetera, ma sto dicendo delle banalità, non mi piacciono i giocatori che si fanno giustizia da soli in quella maniera, perché c'è un arbitro che ha, grazie a Dio, il potere di decidere, e dunque le decisioni devono essere prese attraverso il fischietto dell'arbitro, perché mettere il pallone sotto braccio e andare via si fa al campetto, non si fa al massimo livello professionistico possibile. Davide da Firenze. Buonasera. Io volevo parlare sempre in merito al fatto accaduto ieri sera a Reggio Emilia, nel trofeo team, appunto del fatto che Costant, insomma, se n'è andato, però ne ha parlato l'ascoltatore prima di me. Allora volevo focalizzarmi sull'eco che questo fatto accaduto ha avuto nei media, cioè nel senso che nell'amichevole con l'Impropatria ha avuto un eco molto più forte e qua invece un po' più leggero. Vorrei sapere il perché, visto che comunque si trattava di amichevoli. Sì, si trattava di amichevoli, in questo caso era, volendo, era anche un amichevole più importante, era una vetrina che andava in diretta televisiva su Canale 5. Detto questo, insomma, quello era stato il primo episodio, era stato un episodio molto eclatante e se ne era parlato. In quella circostanza era coinvolto Boateng, era coinvolto principalmente Boateng, come sappiamo, dunque un giocatore anche per le sue frequentazioni nella vita privata sulla cresta dell'onda. In questo caso, Costanzo, non sto facendo dei pesi e delle misure, sto provando a cercare insieme a voi una spiegazione. Mi sembra che comunque l'eco di quanto è successo sia stato comunque clamoroso. Non dimentichiamo il fatto che anche dal punto di vista dei giornali e dei media questa partita e quell'episodio si sono verificati a notte alta, dunque anche per tempi tecnici era un po' difficile dare a ciò un risalto più evidente di quanto non è stato fatto sui media. C'è da dire anche che in questo caso, ed è notizia di oggi, la Procura federale ha aperto un'inchiesta su ciò che è successo a Reggio Emilia, dunque ci siamo dentro fino al collo già, e non è neanche agosto, immaginatevi un po'. Prima di Jerry da Modena però vorrei tornare vorrei andare su un altro fatto e rendere un tributo in questo caso, perché ieri si è spenta metà di un racconto di sport che ha fatto epoca. Se n'è andato Emily Griffith, protagonista di quei match straordinari con Nino Benvenuti, con il titolo mondiale di pugilato, il più prestigioso titolo mondiale del pugilato in palio. Dario Ricci ha intervistato proprio l'altra metà di quella meravigliosa storia. Nino Benvenuti. Assolutamente, è andata da parte di me l'accoppiata che ha tenuto, a parte sveglia la gente nel 1967, ma l'accoppiata di cui si è parlato per decenni dopo, tutti i giorni, fino a questa mattina, che mi domandavano del match con Griffith come fu. Adesso Emilio non c'è più e tutto quello che abbiamo fatto è solo per me e non va bene, perché ci deve essere anche lui, perché il pugilato si fa in due e ormai il pugilato non possiamo più farlo. Qual è il momento di quegli incredibili match che le rimane più intimo nel cuore, al di là dell'esito finale? Quello di quando, alla fine del combattimento, io ero all'angolo e eravamo entrambi in attesa del verdetto e lui da lontano ha fatto una corsa per venirmi a salutare. Questa è cavalleria assoluta, che poi avesse vinto lui o avesse vinto io era la stessa cosa. Si era fatto un combattimento tra due pugili che si rispettavano vicendevolmente e questo era quello che contava. Vi eravate rincontrati anche recentemente, no? Se la memoria non mi inganna. Certo, anche ci siamo incontrati tantissime volte, perché avevo occasione per andare in America e ci vedevamo. Lui è venuto in Italia più di una volta, che l'ho invitato prima a Trieste, poi a Roma, e l'amicizia nostra è rimasta per questo consolidata, ferrea. Quando ci incontravamo, dopo qualche anno anche, sembrava che non ci fossimo mai lasciati. E dunque, mentre faccio presente ad Albino che parassita si scrive con due S, dopo aver guardato le stelle, con la voce di Nino Benvenuti e il ricordo del suo grande avversario, il ricordo di Nino Benvenuti e dell'altra metà di questa leggenda. Oggi Nino sulla Gazzetta dello Sport scrive: è morto un fratello, uniti per sempre, ma l'ha detto anche ora al microfono di Dario Ricci. Dopo aver guardato le stelle, torniamo a rinchiuderci nelle stalle per chiudere, con le parole di Pippo Inzaghi, che sono estremamente sagge, e io la penso esattamente come Inzaghi, quando oggi ha detto: bisogna ignorarli Questa è la soluzione relativo, ovviamente il soggetto è di Animus di cui sopra e gli insulti razzisti, gli diamo troppa importanza, siamo tutti contro il razzismo, se è una cosa che coinvolge tutto lo stadio è giusto fermarsi, altrimenti tappiamoci le orecchie e andiamo avanti. Queste le parole di Inzaghi, sulle quali chioserei, chi ha il potere di intervenire lo faccia, a cominciare dall'arbitro. Gerry da Modena, buongiorno. Buongiorno gente, salve. Mi abbassi la radio anche lei per favore, perché sennò non capisco, grazie. Sì, sono in viva voce in macchina, spero di... Non so, dica. Prova sul telefono, no. Esco dalla macchina. Sì, meglio, grazie. Grazie Gerry, dica. Io la chiamavo, a parte il fatto, volevo dire, anch'io ho guardato la Team Cup, non me ne vergogno, ma chiamavo per Pantani. Sì. No, tanto per stare in tema con quello che lei dice da ieri, insomma, non c'è niente da vergognarsi, eppure non sono tifoso di nessuna delle tre delle squadre. Ma perché ci dovrebbe vergognare? Non ho capito, insomma, ma sa, in questi casi molti dicono, no, io non lo guardo, ma sono mica matto, poi lo guardano di nascosto senza dirlo a nessuno. Tutti dicono non lo guardo, lo guardano tutti. Ma è come leggere certi giornali, no? Molto, molto patinati e molto glamour. Tutti buttano un'occhiata sulla copertina, salvo poi vergognarsene in pubblico, non so perché. Dica. Esatto. Senta, io la chiamavo per farle una segnalazione riguardo il discorso Pantani. Tornavo su Pantani. E in giro dall'anno scorso, e continuerà a girare il prossimo anno, un'opera teatrale che si chiama appunto Pantani. Non so se lei l'ha vista. Sì, certo. Ho sentito parlare. È una cosa eccezionale ed è un'analisi che è collima con quello che diceva poco fa, cioè forse il potere mediatico di Pantani era diventato talmente grande che sport mediaticamente più forti o squadre ciclistiche che avevano speso di più a un certo punto hanno pensato che forse Pantani cominciava a dar fastidio. Ma questo subito no. Dopo Pantani eccetera eccetera sono state cambiate anche le regole dell'antidoping, chissà. Sì, guardi, queste sono leggende metropolitane che conosciamo e che vengono narrate appunto come leggende metropolitane. Quello che dico io è che Pantani aveva il potere mediatico, a prescindere dai suoi competitors, di smascherare chi come lui imbrogliava, cioè aveva il potere di dire io ho fatto come tutti gli altri e tutti gli altri fanno come me, quindi andate a stanarli, andate a cercarli, vi racconto quali sono le pratiche, vi racconto cosa ho fatto io, però è anche quello che fanno gli altri. Non ha avuto il coraggio di fare quello. Luca da Torino, velocemente, poi chiudiamo perché manca poco. Dica. Buongiorno, Luca. Volevo fare i complimenti per la trasmissione e fare i complimenti a lei, perché almeno ha detto che sulla vittoria anche di Froome ha dato qualche dubbio, uno dei pochi eventualmente giornalisti, perché ogni volta non si parla mai di prestazioni che sono al di là dell'umano. Io sono un ciclista, faccio le gran fondo e vedo delle cose che sono quasi impossibili dopo aver fatto 200 km. Ecco. Come diceva Rutger Hauer, lei se lo ricorda, no? Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. In quel capolavoro della storia della cinematografia. In realtà, Luca, chiudendo, le dico che non sono per nulla stato l'unico, uno dei pochi ad avanzare dei dubbi, perché mi risulta che molti l'abbiano fatto, anzi quasi tutti per la verità, tra i miei colleghi, ma perché? Non perché siamo maliziosi, ma perché siamo feriti a sangue da tutti i trascorsi. Dunque, di fronte a certe prestazioni che, chi se ne intende, dice sono ai limiti delle possibilità e della fisiologia umana, insomma, questi dubbi ci vengono spontanei, poi possiamo renderli pubblici a nostro discapito, a nostro malgrado, oppure no, io lo faccio, non ho nessun problema. Torniamo domani naturalmente, tutti convocati qui, dopo il GR delle 14, ogni giorno. Grazie a Franco Piantanini, autore di questo programma, e a Filippo Aureggi in regia. Ciao a tutti.